headlights are on. Dice eccoci qua, dunque Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza. La nostra sigla dice ore 20.05, in realtà sono le 21.10 anche per oggi, per questo resistente 25 aprile del 2018. Anche oggi prove tecniche di trasmissione sino a circa le 22.30, allorché ci sarà 25 o'clock. Lo 06491750 è il contatto telefonico. Sito internet www.ondarossa.info anche per usufruire del nostro streaming, oltre naturalmente per leggere le notizie contenute nel sito stesso. Un saluto ad Alessandra qui da Roma, Maya in Argentina, Fabio FK Drone da Londra, Massimo da Milano. Salutiamo qui il buon Lecce Wake da Roma, progetto storico di Stefano Di Serio, progetto storico di Dark Ambient. E proprio con il Dark Ambient andiamo a iniziare questa sera con l'ultimo lavoro dello svedese Raison Detre, ormai un pezzo di storia di questa tendenza, di questo genere musicale. Figlio dei Corrieri Cosmici tipo Tangerine Dream da un lato, ma anche del buon Brian Lastmord dall'altro. E questa sera ci andiamo ad ascoltare Alchimeia, un suo ultimo lavoro composto da 4 lunghissime tracce. Ci andiamo ad ascoltare la prima parte del primo brano dal nome Nigredo per Rise on Detre. Thank you. l'ammaliante fascino gotico di Rise on Death, progetto proveniente dalla Svezia. Ultimo album Alchimia, e questo era il primo brano dal nome Nigredo. Un brano lungo 17 minuti che sentiremo diviso in due parti, ahimè, ma le dinamiche della trasmissione in qualche modo lo impongono, e quindi questa prima parte stasera, la seconda parte, gli ultimi 8-9 minuti li ascolteremo mercoledì prossimo. Salutiamo Raffaele Pezzella in quel di Napoli e Wurnus Eilin da Asti. Peter Anderson, dunque, un pezzo di storia della scena dark ambient, a lungo appartenente anche alla gloriosissima Cold Meat Industry, un'etichetta e un'esperienza purtroppo morta qualche annetto fa, e attualmente incide con la canadese Cyclic Low. Peter Anderson l'abbiamo anche apprezzato in passato con Svasti Ayanam, invece un progetto molto più affine a un certo modo di essere etnici. Poi Necroforus, più somigliante a Rise on Death. Stratum Terror invece come progetto più vicino a certe movenze industrial noise. Ma sicuramente Rise on Death rimane l'aspetto più noto di Peter Anderson. Salutiamo tanto 25 O'Clock, in onda alle 22:30 circa, con ospiti, credo, Pitre Tolto Punk. O meglio, un appartenente ai Pitre Tolto Punk. Noi andiamo avanti e lasciamo Rise on Death di Peter Anderson, e dalla Svezia ci andiamo in Gran Bretagna, e lo facciamo anche qui con un ultimo lavoro appartenente a Tony Wakeford e i suoi Sol Invictus. Doppio CD di fattura più che ottima, si chiama Necropolis. Chiamarlo neofolk è decisamente riduttivo, giacché le aperture orchestrali e anche qualche schizzo di rumore inusuale per Tony Wakeford arricchiscono il tutto. E quindi ci ascoltiamo Tarn, Tarn, Tarn, The Last Man e Kilbarn. children do not play there. Oh, they simply will not go. The railway track, a green lane, is used not just by train. Those who travel by moonlight, who return before break of day, you run breathless along the footpath. The night sky, it starts to burn. Voices are calling to turn, turn, turn, turn, turn, turn, turn, turn, turn. They go up and they go down to ring the bells of London town. Chop, chop, chop, the last, the last dance, chop, dead. Chop, chop, chop, the last man's dead. Chop, chop, chop, chop, the last man's dead. Chop, chop, chop. Oranges and lemons, say the bells of St. Clement's. Bullseyes and targets, say the bells of St. Margaret's. Say the bells of St. Giles, oh, Hunch and Santa Barley. Say the bells of St. Martin. Pancakes and fritters, say the bells of St. Peter's. Two sticks and an apple, say the bells. Oh, wow. the Black Plague of London. Burn, burn, burn, cries the Great Fire of London. Kill, kill, kill, London's very ill. Burn, burn, burn, London takes a turn. Kill, burn, kill, burn, burn the plague out. London will get well again, there isn't any doubt. Intanto salutiamo per l'appunto il componente di P38 Punk, che verrà intervistato più avanti in 25 o'clock. Which harvest dust gives up the slide. Noi intanto si va a salutare qui da Roma Luciano FM genovese, da Strasburgo Stefan da Strasburgo e quindi dalla Francia, Antonella dalla Sicilia. Intanto ci siamo, come dire, sollazzate le orecchie e tutti i sensi con questo splendido lavoro di Tony Wakeford e i suoi Sol Invictus, si chiama Necropolis. Necropolis, che esce attraverso un'etichetta tedesca, questa Auerbach Tontrager, un album che vede l'importante contributo alla cosiddetta backing vocals di Robin Selman. Intanto si va a salutare anche Anna, una vecchia conoscenza qui di prove tecniche di trasmissione. Judas next to the prodigal son. Serve the cut glass to the cut boats of money. Tornando dunque ai Sol Invictus, Robin Selman, che ha dato un contributo decisivo sia appunto alla voce ma anche all'organizzazione di questi bellissimi cori che pervadono di leggiadria questo Necropolis. Si va avanti, diamo un taglio abbastanza netto e arriviamo qui in Italia, lo facciamo con Giulio Fonseca e il suo moniker Go Do Gong, un progetto che nacque come versante elettronico molto affine al big beat che ricorda molto gli anni 90, mentre con questo lavoro Indian Farts sono delle memorie proprio create su campo etnico, perché sono viaggi compiuti dal nostro Giulio in India, dove ha registrato rumori proprio di ambiente e quindi rumori religiosi, rumori di lavoro, rumore proprio di India vissuta al 100%. E or dunque ci ascoltiamo Hanuman e Varuna da questo Indian Farts per Go Do Gong. questo moderno sciamano si chiama Godugong Giulio Fonseca, di origine milanese. Ed è difficile stare fermi, e per cui mi sono lanciato in una frenetica e solitaria danza qui negli studi di San Lorenzo. E mi fa piacere che questo Indian Farts sia particolarmente gradito quando lo si manda. In questo senso anche Stefan da Strasburgo gradisce alquanto. Adesso viene il momento della compilation dedicata ai Balcani, questa Nesplay Sounds The Balkan Perspective, ovviamente curata dall'amico Raffaele Pezzella, aka Sonologist. Ottimo anche il suo progetto solista. E quindi questa sera ci andiamo ad ascoltare tre artisti. Cominciamo con Plamen Vesnosti, con questa traccia dal nome Lux Ultra. Era dunque Plamen Vesnosti, e adesso andiamo avanti sempre dalla medesima compilation. Chiaramente se Raffaele vuole poi ci può dare anche qualche ulteriore ragguaglio sulla provenienza precisa di questi artisti, ossia di Plamen Vesnosti, questo Mechsoup che sto mandando ora e il successivo Chaosmos. Questo è Plonk and Bread per Mechsoup. Grazie Raffaele. Dunque, Plamen Vesnosti è serbo e vuol dire The Flame of Eternity, la fiamma dell'eternità. Maktsup Cihan Gidubak dalla Turchia. Un strano connubio tra drone, dark ambient e anche influenze vagamente shoegaze, molto particolare dunque, il turco Maktsup. Anche la Turchia dunque, in Turchia c'è qualcosa di buono, soprattutto dal punto di vista musicale. Intanto salutiamo anche Nicola Locci che ci sta ascoltando dalla Sardegna. Allora, sono le 21.58, Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza. Prove tecniche di trasmissione fino alle 22.30 circa. Ecco qua ancora un altro artista da questa compilation, Unexplained Sounds, The Balkan Perspective. Lui è Cosmos. E questa traccia porta il nome di Levitate, Cosmos.